Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, ultima puntata della settimana di Focus Economia, e allora faremo anche un bilancio di questa settimana politica, di politica economica, dove la legge finanziaria, o meglio la manovra, il decreto Salva Italia, è arrivato ed ha subito numerose modifiche, le abbiamo raccontate nel corso della settimana. Oggi sarà anche l'occasione per fare il punto su come esce il governo Monti da questa settimana. Avete già ascoltato nel nostro GR che la manovra è passata con una fiducia ampia, ma una fiducia in calo. Ci sono stati infatti decine di deputati, al di là dei leghisti che da sempre non appoggiano il nuovo governo, che non hanno votato la manovra. E poi anche le dichiarazioni di ieri di Silvio Berlusconi e di oggi di Umberto Bossi. Umberto Bossi ha detto: difficilmente il governo arriverà a fine legislatura. Berlusconi ieri ha definito Monti disperato, e non hanno ben impostato la giornata, soprattutto sui mercati finanziari. Devo dire che, a onore del vero, le borse sono deboli anche per altri motivi, ma non debolissime. Meno 0,80 Milano, meno 0,50 Francoforte, meno 0,80 Parigi, più 0,26 Londra, l'America più 0,60. L'euro è tornato a quota 1,30. Tra i titoli, Pirelli perde il 3,80%, Azimut il 3,5%, Unicredit il 3,20%, Fiat il 3%, Inter San Paolo il 2,90%, Eni perde il 2,30%, Buzioni Cime l'1,80%, Telecom 1,70%, come Luxottica 1,5% del calo di A2A, ma anche di ST Microelectronics e di Tods. In recupero oggi Fondiaria, assai, dopo giornate intere di cali anche più che pesanti, a 75 centesimi di euro più 5%. Bene le banche, quasi tutte, a parte Unicredit che ieri però ha varato l'aumento di capitale. Le banche che vanno bene si chiamano UbiBanca più 5,85, Popolare Emilia Romagna più 5,41 e anche il Banco Popolare più 4,5%, Mediolanum più 4,30. Tra i titoli non bancari segnaliamo Mediaset più 5, Ansaldo STS più 3%, Fiat Industrial più 2,80, Mediobanca più 2,5, Impregilo più 1,5, Parmalat guadagna l'1,40, il Monte dei Paschi l'1,30%, Autogrill più 1%. 349-238-6666 per i vostri sms. Quindi nella seconda ora un bilancio delle misure prese, un bilancio anche politico inevitabilmente della settimana più intensa forse per il governo Monti, se escludiamo quella in cui vi è stato il vertice europeo, quindi la settimana, il fine settimana scorsa. A chi mi dice che parlo della Popolare Emilia Romagna solo quando perde, no, l'abbiamo appena citata, quindi abbiate anche pazienza ogni tanto. E partiremo però con l'annuario statistico dell'Istat, che arriva dopo il rapporto annuale del Censis, che lo ricordo spesso, insomma il Censis lavora in maniera più qualitativa, va a cogliere i segnali di mutamento che i sociologi chiamano psicografici, ma insomma quelli più impercettibili, più di analisi qualitativa. L'Istat invece è l'Istituto Nazionale di Statistica e si muove su dati statistici, quindi dati duri, come dicono sempre gli economisti e i sociologi. Il rapporto di quest'anno è un rapporto che prende in considerazione chiaramente il 2010, con alcune punte sul 2011 e alcuni riferimenti anche sul 2009. È chiaro che non esce una fotografia esaltante, però attenzione, perché c'è anche qualche notizia positiva che riguarda soprattutto le nostre imprese e soprattutto la loro presenza all'estero, che è aumentata. Ora uno può dire: ecco, delocalizzano. No, in realtà, siccome gli unici mercati che stanno tirando si chiamano Cina, India, Brasile, anche Sud America in senso più lato, Russia, è chiaro che se tu vuoi fatturare ti salvi solo con i mercati esteri. Decine di imprenditori che incontriamo anche durante queste settimane ci hanno detto e confermato che senza la componente estera e senza delle volte gli stabilimenti aperti per quei mercati, per servire quei mercati, sarebbero stati in crisi, e cioè si sarebbe dovuto operare un taglio dei posti di lavoro in Italia. Attenzione quindi a demonizzare la presenza all'estero delle imprese, perché se tu fatturi in una tua controllata poi riesci a spammare questo anche sulla casa madre principale o sul quartier generale in Italia. Se non fatturi e non guadagni, alla fine devi ridurre o addirittura chiudere. Comunque c'è qualche notizia positiva per le imprese e per la presenza italiana all'estero, e poi anche notizie di carattere più sociodemografico. Calano i nati nel 2010, dopo anni in cui la natalità in Italia era un po' salita, si è tornati a scendere a 561.944 nuovi nati, ai minimi dal 2006. Di questo parleremo in apertura, poi come sempre i mercati finanziari e il bilancio della settimana politica, e anche, visto che oggi qualche notizia positiva riusciamo a darla, non è facile in questo periodo, anche la classifica che avevamo annunciato due giorni fa, oggi la recuperiamo, di Deloitte, sulle aziende che hanno più migliorato i loro utili e i fatturati nel settore soprattutto dell'information technology, nei settori ad alta componente di ricerca tecnologica. Ci sono anche alcuni italiani, non tantissimi, ma un po' di più rispetto all'anno scorso. 349-238-6666 per i vostri sms. Le altre notizie in breve. Sempre oro e petrolio in apertura. Devo dire che insomma l'oro sale a 1583, petrolio in rialzo a $94. Se vogliamo, la cosa interessante è che nonostante tutte le previsioni per il 2012 parlino di un rallentamento dell'economia globale, cioè la Cina sta piangendo perché non crescerà più del 7,5%, noi piangiamo perché andremo in recessione a meno 1,4, meno 1%, la Germania stessa non andrà oltre lo 0,4. Però dicevo, nonostante tutte le previsioni siano di un rallentamento netto dell'economia mondiale e quindi anche europea l'anno prossimo, la cosa interessante è che il petrolio non si muove, resta fermo a 94, 96, 97 dollari, e anche l'oro, a dimostrazione che c'è una rigidità nella domanda di petrolio nonostante il rallentamento economico. Lo spread o lo spread, come dicono alcuni politici, torna a 460 punti base, non si è molto mosso oggi, ma ripeto, 460 sono meglio di 570 punti dell'apice raggiunto prima delle dimissioni di Berlusconi, ma sono un livello ancora altissimo, è inutile lamentarsi. Ancora per quello che riguarda la crisi a livello europeo e in generale, la notizia di oggi riguarda il Cremlino, che ha approvato l'ingresso della Russia nel WTO, che è la World Trade Organization, quindi l'Organizzazione Mondiale del Commercio, dopo 18 anni di negoziati. Nel frattempo Standard & Poor's arriva a certificare che nel 2012 la recessione dell'area euro sarà più profonda di quanto previsto per ora e fino ad ora. Io non è che voglia prendermela ogni volta con le agenzie di rating, ma mi chiedo che cosa serva, dopo che è arrivato due settimane fa l'OCSE, il Fondo Monetario, la Commissione Europea, ieri il Centro Studi Confindustria, l'IFO tedesco, cioè tutti gli istituti hanno già fatto le loro previsioni, revisioni a ribasso. Mo arriva Standard & Poor's che ci spiega che la recessione dell'Eurozona l'anno prossimo sarà più profonda di quanto previsto finora. Grazie. E grazie al gufo. Sì, tra l'altro stasera potrebbe arrivare l'atteso declassamento della Francia, che dovrebbe perdere la AAA. Come ormai sapete tutti, Sarkozy tanto ne è convinto che l'ha anche dichiarato in un famosissimo Mai Fuori Onda. Però attenzione, una delle altre due agenzie di rating, mi riferisco a Fitch, ha declassato 7 banche europee e non ce n'è alcuna di italiana, perché con buona pace anche dei tedeschi, le banche declassate sono la BNP Paribas, la Barclays Bank, la Svizzera Credit Suisse, l'Americana Bank of America, Citigroup e Goldman Sachs. Forse manterrà il voto Société Générale, la Svizzera UBS e la banca di investimenti Morgan Stanley. La manovra, la fiducia della Camera è passata con 495 sì, 88 no, sono 61 voti in più contrari la manovra rispetto alla fiducia ottenuta lo scorso 18 novembre. Oltre ai deputati si sono aggiunti anche i deputati dell'Italia dei Valori, ma a monti sono mancati comunque un'altra quarantina di voti. La manovra definita dal commissario europeo agli affari economico monetari Olli Rehn è molto convincente, ma c'è ancora tanto da fare. È naturale, ha detto Rehn, che il governo italiano si stia concentrando sul consolidamento di bilancio con questa prima manovra, ma nella prossima manovra è importante che ci sia più enfasi sulle riforme strutturali per riformare servizi e professioni. Le liberalizzazioni, anche Rehn evidentemente è rimasto deluso, e invece positivo il commento soprattutto sull'immagine che sta dando l'Italia all'estero del presidente dell'ENI, Giuseppe Recchi, intervistato dalla nostra Alessandra Schepisi a margine oggi di un convegno a cui hanno partecipato Mario Draghi, Mario Monti e Ignazio Visco, quindi governatore della BCE, presidente del Consiglio e governatore della Banca d'Italia, in memoria di Tommaso Padoa-Schioppa. L'Italia oggi sta dando un segno di capacità di esecuzione, di correzione, che è quello che ci fa recuperare un ruolo in Europa che ci permetterà di partecipare al coordinamento delle politiche, delle policy europee. E per cui oggi l'obiettivo è riuscire a mantenere un'Europa coesa, un'Europa con una moneta unica, un'Europa che può fare delle strategie a lungo termine di crescita. E questo credo sia il principale lavoro su cui è impegnato poi il governo, e la manovra è lo strumento con cui questo succederà. Ancora due notizie, fede alimentare, ne parleremo la prossima settimana del settore alimentare vinicolo, perché da lì arrivano dati relativamente migliori rispetto agli altri, soprattutto nel mondo del vino. Però insomma l'industria alimentare chiuderà il 2011 con un calo della produzione dell'1,5%, si attende però anche un 2012 debole, -1%, e soprattutto per via dei consumi interni, -2%, l'export va bene, +10%, però ha compensato solo in parte. Infatti la nostra industria alimentare vende all'estero 23 miliardi di euro di prodotti, però sono solo il 20% del fatturato complessivo, l'80% lo fa in Italia. Adesso rispondo anche a molti che scrivono sulle delocalizzazioni. Ho detto qua, avere un'importante presenza all'estero non significa solo delocalizzare, significa internazionalizzare l'impresa, e cioè avere la possibilità di riequilibrare l'andamento del fatturato che va male sulle vendite in Italia, in tutti i settori, con invece un buon andamento delle vendite all'estero. Senza quelle vendite sui mercati esteri, ottenute anche con stabilimenti in quei mercati, la casa madre avrebbe dovuto operare in molti casi tagli anche occupazionali in Italia. Quindi attenzione ai cortocircuiti mentali quando si ragiona di imprese all'estero, di imprese internazionalizzate. La privatizzazione della SEA, la società che gestisce l'aeroporto di Milano, Linate Malpensa, si è tinta un po' di giallo, perché l'unica offerta arrivata è quella del fondo F2I che fa capo a Vito Gamberale. C'erano anche gli indiani di SREI, ma hanno avuto un ritardo di 10 minuti nel presentare l'offerta, che quindi ha invalidato la loro partecipazione. Gli indiani sostengono di essere arrivati in tempo e che offrivano 425 milioni di euro per il 30% della SEA. Mercato dell'auto in Europa, a novembre meno 3%, l'Italia fa meno 9, la Francia meno 7,7, la Germania più 2,6, la Gran Bretagna meno 4,2, la Spagna meno 6,4%. E la Fiat fa peggio della media, meno 11,7% in Europa, e ha venduto 10.000 vetture in meno rispetto a un anno fa a novembre, da 76.000 a 67.000, 9.000 vetture. E la cosa che fa un po' specie è che altri marchi vadano bene: Toyota più 4,2, Volkswagen più 5,80%, Renault meno 1%. Negativi come Fiat invece il gruppo Peugeot, Citroën meno 13%, Opel meno 10%. E adesso abbiamo deciso di lanciare anche una rubrica che riguarda sostanzialmente la crisi raccontata nei suoi elementi più singolari, di colore, assurdi, e anche delle volte fanno arrabbiare. È una crisi che vorremmo raccontare non solo con le notizie appunto dure, numeriche, macroeconomiche, ma anche con delle cose così che ogni tanto ci lasciano perplessi o dicono molto più di tante analisi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Allora, la crisi punisce l'albero di Natale, nessuno lo vuole neanche di plastica. Fuori dalle case di molti italiani, l'albero di Natale sostanzialmente appunto resta fuori e non entra. I fiorai vivaisti denunciano che di abeti quest'anno se ne vendono pochissimi, sia veri che di plastica. Scendono i prezzi di un abete rosso, la specie più diffusa, che può costare dai 15 ai 30 euro in meno. Alcuni rivenditori anche hanno deciso direttamente di non rifornirsi più dai vivai, che denunciano un meno 40% di vendite rispetto agli anni passati. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. E però sotto l'albero un italiano su due vorrebbe trovare un regalo da gustare, un cesto di eccellenze gastronomiche. Non sto scherzando, praticamente per il pranzo del 25 dicembre la spesa delle famiglie italiane raggiungerà i 3 miliardi e 200 milioni di euro. Però sono molto contenti i 500 titolari di enoteche e enogastronomie nei negozi da gourmand oggi intervistati. Si sta più attenti allo scontrino, dicono in generale. Però non c'è flessione negli acquisti di alimentari e di bevande. Il 60% dei consumatori italiani infatti acquisterà prodotti del settore agroalimentare o comunque vitivinicolo, e prodotti anche pregiati. Battono anche le richieste di alta tecnologia, iPhone e quant'altro. I prodotti più pregiati come il formaggio stagionato a 36 mesi a quello o quello a 12 mesi, i salumi di nicchia, tra i vini le preferenze vanno a denominazioni che fanno registrare veri e propri boom a due cifre, in alcuni casi a tre cifre, e mi riferisco alla Marrone della Policella, ma anche al Prosecco Valdobbiadene. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. E poi diciamo il nostro appoggio morale e anche sentimentale in qualche modo al numero uno dei Lloyds, il colosso Lloyds Banking Group, Antonio Horta Osorio. È il CEO, il numero uno della Lloyds Banking Group, che tornerà al lavoro il 9 gennaio dopo 6 settimane di aspettativa per motivi di salute. Per carità, ci mancherebbe, in bocca al lupo anche a lui. Horta Osorio è assente dal 2 novembre dopo aver perso sonno e energia a causa dello stress. Pensiamo che Antonio reggerà la tensione, ha detto il presidente dei Lloyds, Sir Win Bischoff. Posso capire che un amministratore delegato occasionalmente si senta stanco, ma riteniamo che reggerà alla tensione. Lo riteniamo anche noi, visto che il suo stipendio è stato, suo ultimo stipendio, 13 milioni di sterline, più o meno 16 milioni di euro. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Vedo che il tema delle imprese italiane che aumentano la loro partecipazione all'estero continua a far arrabbiare alcuni. Mi dispiace, devo ribadire che ormai da anni, forse anche da prima della crisi, molte imprese italiane sono riuscite a mantenere gli occupati in Italia perché avevano aperto anche stabilimenti produttivi all'estero, in Cina. Ma insomma, vogliamo lasciare la Cina ai tedeschi e ai francesi? E l'India pure? Andiamo a combattere invece sui dazi. Il Brasile ha dei dazi sul settore tessile e abbigliamento inaccettabili e speriamo che le imprese italiane riescano a ottenere qualcosa. Ma insomma, lì c'è la ricchezza e lì devono andare a vendere le nostre imprese per mantenere anche gli occupati in Italia. Oh. Comunque l'Istat, 2.100.000 disoccupati che si sono realizzati rispetto al 2007, siamo a un 39% in più, cioè 600.000 disoccupati in più, 834.000 senza lavoro in chi ha meno di 30 anni, il 40% del totale, vabbè che c'è anche l'occupazione in nero in Italia, però è tantissimo, La spesa per la cassa integrazione nel 2010 è salita a 3.200.000.000, il 345% in più, salita anche la spesa per la protezione sociale, previdenza, assistenza e sanità, più 2,2%, e poi una cosa che farà arrabbiare, ma la leggo dopo, impennata degli stipendi per i dipendenti di Palazzo Chigi, in realtà è un po' diverso il dato, ma ci sono anche i dati demografici, calano i nati nel 2010, 561.944 ai minimi dal 2006, e nel 2010 la spesa mensile delle famiglie italiane è cresciuta solo di 11 euro, che al netto dell'inflazione significa che sostanzialmente non c'è stata una maggior spesa, benché sia andata, sia fermata. Comunque tutto questo nella nostra scheda. Non sono solo brutte notizie, come avrebbe invece potuto far presagire la fotografia statistica del paese scattata nel mezzo della peggior crisi dal dopoguerra. Pur tra mille difficoltà, le imprese italiane confermano di avere iscritto nel loro DNA un forte dinamismo. Nel 2010 il giro d'affari è cresciuto del 6,5% e le esportazioni sono salite di quasi il 16%. È vero che il confronto è fatto con il 2009, anno economicamente terribile, e che la quota di mercato mondiale è scesa dal 3,3 al 3%. Non va però sottovalutato il ruolo della produzione di Made in Italy, realizzata direttamente oltre confine. L'Istat ha infatti comunicato oggi anche un altro dato. Nel 2009 erano 6.500 le imprese all'estero che fanno capo a grandi gruppi italiani, per giro d'affari di quasi 380 miliardi di euro e 1,5 milioni di addetti. Dati che andranno aggiornati al rialzo, visto che tra il 2010 e il 2011, oltre un terzo delle grandi aziende italiane ha dichiarato di aver realizzato o progettato nuovi investimenti oltre confine. I dati dell'annuario statistico confermano le difficoltà del mercato del lavoro e una crescita delle retribuzioni raramente al passo con l'inflazione, con l'effetto di una generale perdita di potere d'acquisto. Tuttavia, c'è anche chi può brindare. Ad esempio, i dipendenti di Palazzo Chigi, che tra il 2009 e il 2010 hanno visto lievitare le loro buste paga di ben il 15%, oltre 7 volte il dato medio del 2,1%, sebbene gli incrementi siano in gran parte riconducibili a un aumento delle ore lavorate. È andata molto peggio ad altri dipendenti pubblici. Nei ministeri, nella scuola, tra forze dell'ordine e vigili del fuoco, gli incrementi hanno raggiunto al massimo lo 0,9%. Non possono lamentarsi, viceversa, i giornalisti, con aumenti medi del 4,7%, e gli addetti delle telecomunicazioni, più 3,7%. Inevitabile che con stipendi complessivamente al palo i consumi non crescano e le famiglie tirino la cinghia. Tuttavia, almeno per ora, i risparmi sembrano reggere. Nel 2010 il valore dei depositi bancari ha superato i 916 miliardi di euro, due terzi dei quali appartenenti a famiglie e con un incremento dell'1,1% sul 2009. Oltre il 73% delle famiglie è proprietario della casa in cui abita, una quota che rimane tra le più alte al mondo, seppur in lieve flessione, rispetto alle precedenti rilevazioni. Oh, ci sono anche i giornalisti, così non dite che non parliamo di noi, non vale qui al gruppo Sole 24 Ore dove il tema mi sembra assolutamente un altro. Comunque, presidente dell'Istat, visto che tutti questi dati sono rapporto annuale dell'Istat, Enrico Giovannini, buonasera. Buonasera. Grazie per aver atteso, poi ho il metro e la pubblicità, però una battuta me la dia subito ed è quella che sta facendo più arrabbiare come era immaginabile, gli stipendi per i dipendenti di Palazzo Chigi, anche perché i giornalisti di solito sono nel settore privato. Il settore delle comunicazioni anche, bene anche i servizi aeroportuali di terra più 5%, però il pubblico impiego non va oltre lo 0,7 e i dipendenti di Palazzo Chigi più 15%? No, in realtà, come abbiamo chiarito con una nota, questo aumento che sembra assolutamente anomalo è dovuto a due fattori. Il primo punto è che è aumentato l'orario di lavoro per questa categoria, in controtendenza rispetto alle altre categorie, ma soprattutto perché una parte della retribuzione che in precedenza era cosiddetta accessoria e quindi era fuori dall'indicatore è stata invece riportata all'interno della retribuzione contrattuale. Quindi gran parte di quell'aumento è dovuto, diciamo così, a un fattore tecnico, come spiegammo quando pubblicammo questi dati, e dispiace, come al solito, che si va a cercare in un volume di varie centinaia di pagine un dato un po' strano prima di cercare di... È l'antipolitica però questa. Devo dire che questo elemento certamente è inciso. Sì, diciamo che non stanno facendo nulla i nostri parlamentari perché scemi un po' l'antipolitica. Dopo il meteo, invece, l'analisi del resto della fotografia che avete scartato sul paese, una risposta ancora su chi dice gli imprenditori vanno all'estero per... Attenzione, prima ne parlavamo nel caso del settore alimentare, per esempio. Il settore alimentare è tutto prodotto in Italia, non è che il vino lo vai a fare in Cina e poi ci metti il marchio italiano. Per cui non è vero quello che molti scrivono, vanno all'estero per poi fare... C'è il tessile che produce all'estero per un insieme di motivi, ma il tessile produce all'estero dappertutto, Zara, H&M, è inutile fare le battaglie di retroguardia, poi ti riempi di Zara e H&M in Italia e non vendi più Made in Italy da nessuna parte. E poi altri settori che fanno un po', tengono la testa della ricerca in Italia, magari l'assemblaggio lo fanno all'estero, non generalizziamo. Ma quello che è certo è che senza l'export le nostre imprese non reggevano neanche nel 2011. Meteo. Allora, presidente dell'Istat Giovannini, ha chiarito che i dipendenti di Palazzo Chigi guadagnano di più perché lavorano di più. A me il 15% mi sembra comunque tanto, però vabbè. Poi leggerò anche una cosina su Palazzo Chigi, che intanto continua ad assumere un decreto firmato dall'allora ministro della funzione pubblica Brunetta. Quello dei fannulloni, che però invece ha assunto 12 dirigenti. Però andiamo alla fotografia del paese. Allora, mi sembra di poter dire che al di là del blocco demografico che voi registrate, se dicessi che la fotografia che avete scattato del paese è meno peggio, è leggermente più rosea, mi rendo conto di sembrare quasi un eretico, rispetto alle attese? Intanto ricordiamo che questo è l'annuario statistico sul 2010. e quindi non dobbiamo confondere con la situazione che avevamo a fine 2010 di ripresa nei confronti del 2009 con quella che abbiamo oggi e che viene regolarmente monitorato attraverso i nostri dati. Ma anche se guardiamo al 2010, come sempre in un grande paese come l'Italia, tra l'altro un paese molto eterogeneo, abbiamo come al solito luci e ombre. Nel 2010, ricordiamolo, le imprese soprattutto esportatrici, come voi avete ricordato, stavano recuperando rapidamente i livelli antecrisi delle esportazioni, ma non lo avevano ancora raggiunti questo livello antecrisi. Nel corso del 2011, prima della forte frenata che sta avvenendo nell'economia mondiale alla fine del 2011, invece avevano raggiunto e addirittura superato il livello antecrisi, soprattutto le piccole e le medie imprese. Abbiamo poi ancora nell'annuario una situazione delle famiglie italiane che, lo ricordiamo, nonostante la crisi non avevano visto aumentare gli indicatori di povertà, ma dobbiamo ricordare che gli indicatori di povertà sono basati sui consumi. E che cosa abbiamo fatto come italiani nel corso degli ultimi anni? Abbiamo ridotto il risparmio per continuare a tenere su il nostro livello di consumi. Quindi è chiaro che indicatori basati unicamente sui consumi non avevano mostrato quella grande caduta, ma è naturale che questo elemento è insostenibile, come infatti... Cioè tu erodi un po' il tuo risparmio, me lo fai per un anno, lo fai per due anni, poi a un certo momento vai a tagliare i consumi, che questo è il problema che avremo l'anno prossimo, oltre che quest'anno. Credo esattamente che il paese avesse in qualche modo stimato, valutato che la crisi fosse un fatto puramente temporaneo e quindi in questa situazione gli economisti ci insegnano che uno mantiene i livelli di consumo e ritira risparmio sperando di poterlo riaccumulare successivamente. Ora che ci rendiamo conto che il 2012 sarà particolarmente difficile, il rischio vero è di un, come si dice in inglese, overshooting, cioè di un eccesso di reazione con una forte caduta del consumo. Sì, devo dire che i cittadini si sentivano anche dire, tanto direte che l'hanno butto in politica, dal governo che la crisi era passeggera, che la crisi non c'era, che in Italia comunque si stava bene, e comunque, per non dare solo responsabilità al loro governo Berlusconi, molti indicatori anche delle previsioni economiche dicevano attenzione, nel 2011 si riparte, e vi ricordo ancora le stime tra il 2012 e il 2013 torneremo ai livelli del 2007, invece qui abbiamo scoperto che nel 2012 torniamo ai livelli del 2009. Se va bene. Detto ciò, vorrei ancora un commento da lei su un'altra cosa che voi avete registrato oggi. Nel biennio 2010-2011 i principali gruppi italiani, gruppi d'impresa, hanno mostrato una significativa propensione all'espansione all'estero. Oltre il 40% di quelli attivi nei servizi e il 30% di quelli industriali hanno già realizzato nuovi investimenti di controllo all'estero. Sostanzialmente, principalmente in Europa, ma anche nel vicino e Medio Oriente. Pensate che nel 2010 le imprese italiane avevano all'estero 21.000 controllate in 165 paesi che impiegano 1,5 milioni di addetti con un fatturato di 380 miliardi. La critica che mi sta arrivando in maniera anche pesante è: in questo modo si crea disoccupazione in Italia. C'è un ascoltatore che dice: vai a raccontare ai disoccupati le cui fabbriche hanno delocalizzato, vergognati, ti auguro la disoccupazione, solo così capirai, ho una bella malattia che ti rende inabile e poi vedremo come la pensi. Vabbè, grazie per l'auguro di natalizio, io posso fare tutti i gesti che voglio, tanto non mi vedete, ma Presidente, possiamo chiarire quanta parte invece del mantenimento occupazionale del fatturato delle imprese italiane derivi purtroppo dall'estero? Andiamo a vedere proprio nella nostra rilevazione quali sono stati gli effetti benefici dal punto di vista delle imprese di questa delocalizzazione, che però, attenzione, non è la delocalizzazione di cui si parlava nei primi anni 2000, cioè la fuga dall'Italia perché il costo del lavoro era alto, perché non c'erano le condizioni. Qui stiamo parlando di una vera e propria integrazione globale delle imprese italiane. Ecco, le imprese, il 78% delle imprese industriali dice che l'effetto netto di questa scelta di andare anche in parte all'estero è stato l'accesso a nuovi mercati e la disponibilità di servizi in loco per i clienti. Sono nel 42% e nell'industria e solo nel 30% nei servizi si è avuta una contrazione del costo del lavoro. Allora, il punto vero che abbiamo di fronte nazionalizzando e non dobbiamo criticarle per questo. Il vero problema, come sappiamo bene, è che poche imprese straniere vengono invece a investire in Italia. Allora, noi da un lato abbiamo un rubinetto, diciamo così, che è un po' chiuso per i nuovi ingressi, mentre abbiamo come il buco di una vasca che continua giustamente a far defluire alcune imprese e il saldo netto è negativo. Questo è il vero problema. E quando si parla di attrazione degli investimenti in Italia, non è soltanto un problema di costo del lavoro, perché noi abbiamo del personale molto qualificato e, come per esempio la relazione della Banca d'Italia ci ha ricordato ultimamente, abbiamo purtroppo una giustizia civile che è molto lenta, abbiamo delle infrastrutture inadeguate. La burocrazia, cioè abbiamo tutto un insieme di elementi, ne abbiamo parlato decine di volte, che spaventano, allontanano, tengono alla larga tutti gli investimenti stranieri. Però mi permette di aggiungere, nel ringraziare la Presidente Giovannini, che o le imprese italiane aumentano le dimensioni anche aprendo controllate all'estero, anche e soprattutto presidiando i mercati che più stanno crescendo. Non è colpa mia né delle imprese italiane se l'Europa non cresce e cresce solo l'est, il Far East asiatico, il Brasile o la Russia, oppure noi diventeremo anche terra di conquista, perché a questi prezzi abbiamo visto che è successo quest'anno tra Bulgari, Parmalat, Gancia e quant'altro. Grazie al presidente dell'Istat Enrico Giovannini, buon Natale se non ci sentiamo prima. Grazie presidente, anche a lei e a tutti gli ascoltatori. Il traffico e poi una chiosa su Palazzo Chigi, i cui dipendenti guadagnano il 15% in più, e la borsa 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta, adesso parliamo di borsa, però una cosa la devo dire, ha ragione il presidente dell'Istat, l'abbiamo appena ascoltato. I dipendenti di Palazzo Chigi hanno guadagnato il 15% in più perché hanno lavorato di più. Non ho capito quanto di più per guadagnare il 15% in più. Però Palazzo Chigi è anche uno dei pochi posti nella pubblica amministrazione in cui si assume, perché no assunzioni negli insegnanti di sostegno e nelle forze dell'ordine, ci mancherebbe. Però erano fondamentali 33 nuove assunzioni, di cui 12 dirigenti a Palazzo Chigi, le ha decise l'allora ministro della funzione pubblica Brunetta. La manovra di agosto, perché la manovra di agosto ha escluso il governo dal divieto di nuove assunzioni, quindi è la solita cosa, armiamoci e partite. I dirigenti di Palazzo Chigi si avvicinano così a quota 400, il doppio del governo britannico. Naturalmente la Gran Bretagna è male amministrata ed è lenta come governo di Downing Street. Praticamente Palazzo Chigi paga almeno 4.600 stipendi da 50.000 euro lordi l'anno medi, e le spese l'anno prossimo, ultima legge di stabilità, quella fatta in autunno, saliranno da 465 milioni di quest'anno a 486 milioni. Ecco perché c'è la crisi, ma per alcuni è una crisi, per altra è un'altra crisi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Livia Zancaner, buonasera, Radio Corriere sulle 24 ore. Buonasera. Tu hai avuto lo stipendio aumentato del 4%, come certifica oggi l'Istat sui giornalisti, 4,5%, sei anche tu lì? No, assolutamente no. È una rivendicazione che vuoi fare in diretta? No, vuoi entrare nella media? Ci mancherebbe altro. Allora Livia, prima parte dei mercati, poi continuiamo dopo il GR, alla fine i cali si sono ridotti, meno 0,38% Milano, meno 0,88% Parigi, meno 0,50% Francoforte, meno 0,25% Londra, più 0,30%, però oggi sono le tre streghe, the three witches, eh? Sì, oggi è il giorno delle tre streghe, l'altra volta era stato il 16 settembre, si tratta delle scadenze tecniche dei futures su azioni, opzioni e indici, oggi non hanno pesato più di tanto in quanto sono altri i temi della giornata. Anche le streghe, che una volta erano un elemento che si commentava, vanno in pensione, nel senso, la crisi batte anche le streghe, qui non contano più niente neanche le scadenze tecniche. Vabbè. Le banche, nonostante il declassamento di Fitch, non vanno male, e da noi, le banche in Europa, da noi va bene Banco Popolare, scende Unicredit dopo l'aumento di capitale, e Fonsai rimbalza, ma ha perso il 40% da inizio dicembre. 349-238-6666 per i vostri sms, questi temi dopo il GR. 18:07, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Livia Zancaner, fatto il quadro generale della borsa, e andiamo, il declassamento di Fitch di alcune banche europee non ha avuto alcun effetto, mi sembra, sulle banche, tranne Unicredit. Partiamo da lì, ma lì c'è una vicenda molto specifica. Ieri è fatto l'aumento di capitale, oggi però c'è qualche incertezza. L'aumento di capitale è andato a buon fine, ma... Sì, dunque l'Assemblea ha dato il via libera all'aumento di capitale da 7,5 miliardi. Esatto. E l'aumento di capitale partirà a gennaio. Ci sono due fattori che hanno penalizzato il titolo: da una parte l'incertezza sul livello di sottoscrizione dell'aumento e dall'altra la definizione del prezzo che verrà fissato la prossima settimana. In merito proprio alla definizione del prezzo, in discrezione hanno parlato di uno sconto del 40-45% rispetto alle quotazioni di mercato, e questo potrebbe quindi penalizzare il titolo. Sì, ricordiamo che deve trovare un Unicredit a questo punto 7,5 miliardi, se non ricordo male. No? Sì, l'aumento da 7,5 miliardi. Ecco. Allora, le altre banche invece bene, a partire dalla Popolare Emilia Romagna più 11,50%, strappo nel finale. Che è successo? Sì, allora bisogna appunto, ha accelerato proprio sul finale di seduta, nel senso che 5 minuti prima della chiusura comunque viaggiava su un più 6%, ci sono state delle ricoperture. Ricordiamo che comunque, nonostante i recenti rialzi, il titolo resta al di sotto del valore di ingresso nel FTSE MIB, che è l'indice principale, a settembre, quando valeva circa 8,4 euro, questa sera ha chiuso a 6,29 euro. Bene, anche le altre banche: UbiBanca più 7,80, Banco Popolare più 7,70 e ancora un finanziario come Mediolanum più 6,40%. Come mai questo vigore? Andavano bene già durante la seduta, ma hanno preso un paio di punti percentuali nell'ultima mezz'ora di seduta. Sì, allora, per quanto riguarda Mediolanum non ci sono notizie, se non che oggi gli acquisti hanno premiato Mediolanum mentre hanno penalizzato la concorrente Azimut, che ha appunto perso il 4,9%. Per quanto riguarda un altro titolo finanziario, che è Fonsai, ha guadagnato oltre il 4%, il titolo è rimbalzato dopo una perdita del 40% dal 5 dicembre, quando nelle ultime settimane è stato penalizzato dai timori di un imminente aumento di capitali. Le indiscrezioni di oggi, riportate dal Sole 24 Ore, parlano di un contatto tra la famiglia Ligresti e tre fondi, tra cui vi sarebbe anche Clessidra, per sostenere l'eventuale aumento di capitale che potrebbe essere deciso dal consiglio di amministrazione della compagnia il prossimo 23 dicembre. Quindi il mercato è comunque in attesa delle imminenti future sì, novità. Sì, è un rimbalzo che fa respirare un po' il titolo, il 4,17% di oggi di Fondiere SAI. Non se ne voglia il gruppo di Ligresti, ma per ora è il rimbalzo del gatto morto, perché è meno 40% dal 5 dicembre, voglio dire, no? Il rimbalzo del gatto morto è quell'espressione inglese per cui, se tu butti un gatto da un grattacielo, quando atterra rimbalza anche lui a un certo momento, ma non è diciamo, un rimbalzo di quelli su cui esaltarsi. Chiusa Fiat invece, allora, i dati auto sono brutti a livello europeo, e Fiat Industrial guadagna perché camion e trattori il 4,12%, Fiat Auto meno 2,56%, quindi mi sembra che ci sia poco da commentare. Tods perde l'1%, ma anche e soprattutto vorrei chiarire la vicenda Edison. Qui Edison ormai è una tela di Penelope, sembra che si raggiunga l'accordo tra i soci francesi e quelli italiani, poi invece tutto da capo. Il titolo? Il titolo ha chiuso in calo dello 0,7% circa, ha recuperato in parte le perdite registrate durante la seduta, e in effetti sì, continuano ad aumentare i contrasti e i dubbi tra i soci francesi e i soci italiani. Vi è un nuovo rinvio quindi del riassetto, con i patti in scadenza il 30 dicembre che verranno prorogati, e in particolare il mercato è intimorito dalle voci di un aumento di capitale, un'operazione che potrebbe essere discussa nel consiglio della società di mercoledì 21 dicembre. Sul tema vi sarà con tutta probabilità quindi un confronto serrato tra italiani e francesi, discussioni che si aggiungeranno quindi a quelle che sono già in corso. Sì, un ascoltatore scrive che c'è anche il rimbalzo della gatta morta, quello lo conosciamo di meno, obiettivamente non è un'espressione che si usa in finanza. Azimut invece meno 4,91, Pirelli meno 4,26, Intesa meno 3,34, Eni meno 2,60. Allora, Azimut e Intesa, e poi vorrei chiudere su Pirelli ed Eni. Allora, su Azimut non ci sono novità, se non appunto, come dicevo prima, uno switch, quindi con Mediolanum, cioè gli acquisti hanno premiato Mediolanum, mentre le vendite si sono concentrate su Azimut. Intesa ha avuto un andamento particolare, nel senso che è stata positiva per quasi tutta la seduta, come il resto del comparto bancario, ad eccezione di Unicredit, per poi virare in negativo sul finale e perdere quindi oltre il 3%. Pirelli e Eni meno 2,65% a 15 euro per azione, Pirelli meno 4,26 a 6,30 euro. Allora, per quanto riguarda su Eni non vi sono notizie particolari, mentre per quanto riguarda Pirelli diciamo che il titolo sconta l'andamento del comparto auto, la debolezza quindi del settore in Europa, settore che ha perso oltre l'1% oggi. I migliori e i peggiori in assoluto, finale di settimana, Cape Listed più 17,60, D-Mail più 13,50, RDB più 12,90 e poi la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, di cui abbiamo detto bene, anche Prema Finfinanziaria 8, è la controllante più 8%, la controllante del gruppo Fondiaria SAI. Fronte opposto, Bastoggi meno 9%, First Capital meno 8,60. Meridiana meno 6,60, Piaggio meno 6,50%, Best Union Company meno 9%. Grazie Livia Zancaner e buon fine settimana a te e a tutti i colleghi del Diocori Sole 24 Ore. Grazie anche a voi. Prima di arrivare al commento di politica economica sulla settimana più intensa per Mario Monti, ripeto, settimana italiana più intensa o dopo quella di carattere europeo, vorremmo raccontare un episodio che potrebbe andare sotto il nome del c'è chi perde il pelo ma non il vizio. Abbiamo difeso le banche italiane, abbiamo ricordato come fossero meno esposte di altre banche straniere, come sistema europeo non possa penalizzarle, vedi il caso della European Banking Authority, però la vicenda che ci sta riferita della Banca Popolare di Milano grida vendetta. Ci sono migliaia di azionisti della banca che hanno comprato uno strumento che doveva essere uno strumento obbligazionario e sono risparmiatori, sono cassettisti. In realtà, sapete cos'era? Erano azioni vestite da obbligazioni. Bene. Flavia Carletti di Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Se ne sa ancora poco, quel poco che sappiamo lo sappiamo dagli ascoltatori che ci hanno scritto, ci hanno telefonato su questo, ma insomma è così, hanno venduto a risparmiatori con un modulo tra l'altro difficilissimo da capire, che cosa? Allora, hanno venduto queste obbligazioni, che però non era un'obbligazione normale, quella che può essere un corporate bond, cioè una banca ha bisogno di finanziarsi, emette un'obbligazione a scadenza, il cliente riceve quanto aveva versato con degli interessi o comunque c'è un guadagno. Qui invece era un convertibile, cioè c'era un obbligo ovviamente di convertire queste obbligazioni in azioni della banca. E quando sono stati venduti nel 2009 queste obbligazioni valevano 6 euro. Oggi che la banca vuole convertirle in azione, il titolo è quasi a 0,3 euro. Più o meno per azione, si calcola che per i clienti ci sarà una perdita del 90%. La questione è che su questo ha acceso un faro la Procura di Milano, perché già la Consob si era mossa e ha multato 3 tra dirigenti ed ex dirigenti della banca per quasi 400.000 euro, perché il problema è stato che sono state vendute queste obbligazioni a clienti che avevano dei profili di rischio non adatti a questo tipo di strumenti finanziari, perché sono state vendute anche a clienti che avevano non solo un profilo moderato ma anche prudente se non molto prudente. L'ipotesi è che in qualche modo la banca abbia guadagnato alle spalle dei propri clienti agendo in conflitto di interessi. Ecco, a me sembra di tornare indietro agli anni 2002-2003 e quant'altro. Era presidente Ponzellini al tempo, no? Sì, era il 2009. Ponzellini, si faccia sentire, l'abbiamo intervistata, si faccia sentire che cosa è successo alla banca nel 2009, perché anche a noi risulta che, voglio dire, non c'è niente di male nel proporre un'obbligazione che poi si può trasformare in azione se uno capisce così. Il problema è che dal prospetto che noi abbiamo visto non si capisce una beata niente. E poi, se uno ha il profilo di rischio basso o prudente, non si può vendere un'obbligazione che poi la banca può trasformare quando ne ha bisogno, come adesso che è arrivata la lettera. Ti propongono quanto? Il 10% del totale, cioè uno ha messo, poniamo, 10.000 euro di risparmio, 100.000 euro di risparmio e se ne becca 1.000 o 10.000, no? Sì, esattamente, ci sono per esempio casi di persone che hanno investito 200.000 euro e la proposta è di ridargli 20.000 euro, quindi diciamo una perdita totale. L'avidità, non trovo una parola migliore, è valida. L'avidità è giusta, l'avidità funziona, l'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo, l'avidità in tutte le sue forme, l'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità. E l'avidità, ascoltatemi bene, non salverà solamente la Telltale Carta, ma anche l'altra disfunzionante società che ha nome America. Grazie, grazie a Flavia Carletti. Io spero che arrivino chiarimenti a breve da parte della Popolare di Milano, perché le banche vanno difese, se si ferma il credito bancario si ferma il paese, però per essere difese correttamente basta con questi mezzucci fatti su clienti, su chi ha risparmi, di proporre le obbligazioni che, cioè che sono azioni vestite da obbligazioni che poi vai a trasformare, magari le trasformi adesso quando chiaramente i livelli del titolo sono ai minimi. Grazie a Flavia Carletti per averci raccontato questa storia che non avremmo voluto sentire. Il traffico e poi l'ultima parte, la settimana più lunga del governo Monti, cosa è mancata? Il coraggio, la fantasia? 349-238-6666 per i vostri sms. Ultima parte di Focus Economia. Allora, il bilancio della settimana più lunga sul fronte della manovra per Mario Monti. La settimana è stata in lunga anche per quello che riguarda la scorsa e quella di carattere europeo, però questa è la settimana in cui si è andata a chiudere la manovra Salva Italia. Il voto di fiducia è arrivato oggi e sono iniziate però un po' di critiche. Sul Sole 24 Ore, Stefano Folli scrive: diamogli tempo, questo è il titolo, il rischio è il caos, e secondo me è la cornice su cui muoversi. Cioè, attenzione, Monti può essere criticato e va criticato laddove ha avuto poco coraggio, poca fantasia, poca equità, ma il rischio fuori da Monti è il caos che abbiamo visto a novembre, e lo ribadisco ancora una volta, tutti possono criticare il governo tranne chi ha governato fino a un mese fa, che stia l'opposizione come la Lega o che stia, perché voglio dire, non hanno fatto nulla nelle pensioni, hanno fatto finanziarie da correggere a luglio, 3 miliardi di finanziarie da correggere ad agosto, poi con una botta da 25, lotta all'evasione, nulla. Allora, per favore, gli ascoltatori critichino e facciano quello che vogliono, ma chi ha governato fino a un mese fa abbia la decenza di stare zitto, che si chiami Lega o si chiami PDL, poco mi interessa. E anche l'opposizione cerchi di avere un atteggiamento costruttivo. Stefano Folli, buonasera. Buonasera. Troppo? Ho esagerato? No, hai riassunto benissimo. No, perché voglio dire, possiamo farlo io e te, gli ascoltatori, ma non sentir dire ex ministri: ah, questo governo ammazza gli italiani con le tasse. Vabbè, e voi dove eravate? Assolutamente, questo governo, cosa insopportabile. Prego. Questo governo nasce dal fallimento delle forze politiche, della maggioranza senza meno, come hai detto bene. Direi anche un po' dell'opposizione, che non è stata in grado, sì, di farsi trovare pronta con una proposta alternativa. Io la manovra del PD, la manovra di Bersani alternativa, devo ancora capirla, cioè so che quella del PDL non c'era, Tremonti è scomparso, ma io da Bersani non ho ancora capito quale sarebbe la parte diversa rispetto alla manovra attuale. Infatti, quindi questa simmetrica e grave debolezza delle forze politiche consente al governo Monti di esprimersi. Io penso che il governo Monti debba avere coraggio, debba avere molto coraggio, debba caratterizzarsi come il governo che apre il sistema Italia, che liberalizza, che modernizza, proprio diciamo facendo leva su questa estrema debolezza delle forze politiche tradizionali. Se invece restasse invischiato nella palude parlamentare, certamente come dire, non solo verrebbe meno la sua missione, ma restituirebbe alle forze politiche quella voglia di tornare sulla scena che in questo momento non hanno. Allora, su questo, tu che conosci da dentro le vicende di Palazzo, che cosa ha bloccato Monti? Perché sulle liberalizzazioni retromarcia, anche sul fronte della lotta all'evasione io mi aspettavo un po' di più. Insomma, oggi vedo che in Svizzera i depositi degli italiani sono stimati tra i 130 e i 250 miliardi di euro, un accordo con la Svizzera si poteva fare. Varie anche amenità, ci ha scritto un ascoltatore, ma dove sono i soldi che devono dare i gestori delle macchine, delle slot machine? Cioè, cos'è mancato? Le pressioni che lui non può raccontare oppure l'emergenza? Dimmi. Non c'è una sola spiegazione. Sicuramente ci sono state delle pressioni molto forti, anche indefinibili, ma che vengono un po' da varie parti. Penso che ci sia stata una certa sottovalutazione del problema, cioè la chiusura rigida dell'Italia corporativa, delle corporazioni, è grandissima, è il problema centrale della nostra vita civile da molti, molti anni. È possibile che i tecnici l'abbiano un po' sottovalutato. Però. E poi naturalmente c'è l'elemento dell'emergenza. Non è una scusante, perché anche loro vivono in Italia e sanno che gli avvocati, i notai, i farmacisti, La scusante che trovo è il tempo, è un governo che si è insediato da meno di un mese, che ha dovuto affrontare una questione, ha dovuto mettere il tappo alla vasca da bagno che perdeva, il problema diciamo di rimettere in sesto i conti, di dare un messaggio di grande rigore all'Europa ha prevalso. Naturalmente i due tempi, cioè prima le tasse diciamo e poi le riforme, comporta dei rischi, comporta soprattutto di scadere in questo tran tran che può essere letto come una sorta di tattica politica, cosa che io credo che questo governo non debba avere. Questo governo deve essere rispettoso verso il Parlamento, ma deve essere estremamente deciso nell'attuazione del programma. Questo diciamo ha un po' mancato il passo, gli è un po' scivolato il passo in questi ultimi giorni, ma io tengo a dire che penso insomma che sia stato imposto questo dalla estrema brevità dei tempi e dalle priorità dell'emergenza. Allora è un po' di giorni che mi frulla in testa una canzone che secondo me sintetizza quello che è mancato a Mario Monti, ferma restando la cornice che ho detto prima. Monti si chiama Mario, ma se si chiamasse Nino? Nino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia, dall'altruismo e dalla fantasia, dall'altruismo e dalla fantasia, fantasia, fantasia. Fantasia e coraggio, Stefano Folli, sei d'accordo? Assolutamente sì. Ti è piaciuto questo? Io penso che Monti sia ampiamente in tempo per entrare diciamo a velocità nella sua velocità di crociera. Deve farlo, dovrà farlo entro i primi giorni del 2012, soprattutto per non dare l'impressione di timidezza alle forze politiche. Questo anche perché quelli fatemi passare questa battuta, capiscono solo le misure forti, no? Perché sì. Se tu tieni botta prendono paura, anche perché se Monti minaccia le dimissioni, quelli, no? Il terrore, l'horror vacui. Però no, se tu ti dimostri che li ascolti, quelli fanno i duri con i deboli e i deboli con i forti. A me piace molto il tono di Monti quando parla con molto rispetto alle forze politiche, però dimostra anche di non voler uscire dal suo tracciato, dalla sua rotta. Ecco, deve farlo veramente, deve avere il coraggio di mettere mano, ripeto, a quello che è l'antico problema della società italiana, città ingessata, chiusa dalle corporazioni. Ognuno pensa al suo orticello. Lui deve fare questo, certamente troverà ostacoli, verrà sfidato, se non dovrà ora quando essere forte, perché è la sua missione. E poi se non ora quando, cioè c'è il clima, talmente, no, adesso conio anche gli slogan femministi, non so più che cosa usare, c'è un clima talmente grave fuori e la politica è talmente nel pallone che adesso hai gli strumenti, se non osi adesso poi tutto si rischia di ringessare. Grazie all'editorialista del Sole 24 Ore Stefano Folli, ciao, grazie a Mauro Del Corno, ciao Stefano, e Barbara Bianchi come sempre per l'assistenza in redazione. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di un buon fine settimana, ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, il Natale si sente.